Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Forti fumatori ed ex fumatori da almeno 10 anni cercasi per programma di screening per il tumore al polmone che partirà nel mese in corso in una dozzina di centri italiani coordinati dall'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. A Obiettivo Salute il dottor Giovanni Apolone, direttore scientifico dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Dottor Apolone, buongiorno e grazie per essere con noi. Buongiorno a voi, grazie. Dottore, iniziamo dal reclutamento. Quali sono i requisiti e a chi è necessario rivolgersi? Dunque, essendo l'obiettivo dello studio quello di identificare persone ad alto rischio che possono avere quindi la possibilità di avere una patologia tumorale del polmone, noi quello che stiamo cercando di reclutare e di offrire sono a persone che hanno un'età superiore a 55 anni e che sono forti fumatori o hanno smesso di fumare negli ultimi 10 anni, di poter eseguire una TAC periodica che ci permetterà di stratificare il rischio di tumore e di agire di conseguenza. Lo studio è uno studio europeo e che permette all'Italia, all'Istituto Nazionale dei Tumori, di partecipare, ma abbiamo deciso di allargare la partecipazione a una dozzina di centri selezionati che coprono di fatto tutto il territorio nazionale. Ma la vera novità, non parlando di pazienti ma parlando di persone a rischio di diventare pazienti, che abbiamo fatto partire una collaborazione con la Società Italiana di Medicina Generale e saranno i medici di medicina generale che, in base alle loro conoscenze della persona e in base alle informazioni che già hanno nei loro archivi, selezioneranno le persone eleggibili, le incontreranno e le indirizzeranno poi al più vicino centro che fa parte di questa rete di 12 centri italiani. Dottor Apolone, quindi lavori in corso, nel frattempo ricordiamo è disponibile il progetto SMILE presso l'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Come funziona e a chi è rivolto? Lo studio SMILE, che è attivo da qualche tempo, è uno studio che ha caratteristiche molto simili allo studio precedente, che sarà invece su base nazionale, e le principali differenze sono legate al fatto che è solo l'Istituto Nazionale dei Tumori che recluta i pazienti. Tutti i pazienti, i cittadini italiani con le stesse caratteristiche di rischio, in sostanza prima elencate, possono partecipare e venire nel nostro istituto, ma naturalmente devono venire a Milano. Per facilitare la cosa, al momento noi offriamo attraverso un sito che si chiama www.programmasmile.it una serie di semplici videate che permettono di dare le informazioni necessarie e di iscriversi al primo step. Poche domande di screening, se la persona è eleggibile viene poi contattata da una persona dei nostri ambulatori che fissa il primo incontro, gli esami e quant'altro. Bene, per oggi è tutto. Tra poco vi aspetto in diretta Facebook. Riprendono infatti i nostri incontri con i medici in studio, pronti a suggerirvi consigli e a rispondere alle vostre domande. Oggi consigli per mantenersi o ritornare agili e scattanti. Vi aspetto, non mancate. Un saluto e una buona giornata da Nicoletta, mentre la programmazione, come sempre, continua con Melog. Buonissima giornata.